Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buon inizio settimana a tutti. E noi pensavamo che potessimo dare il buongiorno ai nostri ascoltatori anche dal punto di vista finanziario, non è esattamente così. C'è un ribasso, come vi anticipavo nel giornale radio, su tutte le piazze europee, per cui c'è un segnale ancora di tensione fra gli investitori. Il mercato francese perde l'1,22%, stamattina Francoforte perde un punto, Londra perde lo 0,9%, Milano, che era davvero la piazza che era all'esame del mercato in maniera un po' più forte delle altre, perché ci si aspettava la reazione degli investitori rispetto alla manovra correttiva dei conti pubblici che ha avuto il via libera al Parlamento. La settimana, la fiducia al Parlamento negli ultimi giorni della scorsa settimana, e oggi tra l'altro tutto il pacchetto sarà anche all'esame di questo colloquio fra il Premier Berlusconi e il Presidente della Repubblica. E questa è la reazione del mercato: meno 1,70% sul FTSE MIB. Il principale paniere di Piazza Affari in avvio perdeva un punto, poi lo ha raddoppiato, poi ha ridotto i suoi guadagni di nuovo. C'è una certa volatilità e in ogni caso c'è una reazione che era quella che sostanzialmente ci si aspettava. Adesso vedremo nei prossimi giorni che cosa accadrà. È ritornato verso l'alto il differenziale di rendimento fra il BTP italiano e il Bund tedesco, lo spread è ripiombato oltre i 300 punti base, a 325 esattamente, quindi il rendimento del BTP a 10 anni è salito al 5,88%. Un altro segnale di tensione sul mercato è il nuovo record raggiunto dal prezzo dell'oro, questa mattina oltre $1,600 l'oncia, e c'è un calo in tutta Europa, quindi questo per fortuna almeno non è un aspetto che riguarda solo Piazza Affari, un calo abbastanza forte di tutti i titoli del settore bancario. Questo perché? Perché venerdì sono stati comunicati i risultati degli stress test condotti dall'EBA, dall'autorità bancaria europea, sulle banche appunto del vecchio continente, su 91 istituti di credito. 8 non hanno passato il test, per la verità si temeva che il test non venisse passato da oltre 10 istituti, sono invece stati 8 a non superare l'esame. Ma forse il mercato non crede molto a questi risultati, oppure ci si aspetta che per mantenere anche questi coefficienti che sono stati presentati si dovrà comunque procedere a nuove iniziative di ricapitalizzazione, di ripatrimonializzazione. Di fatto tutte le banche perdono terreno in maniera forte in tutta Europa. Vi do qualche esempio: Société Générale a Parigi perde il 4,61%, AXA meno 3,63%, BNP Paribas meno 2,65%, Crédit Agricole meno 2,56%, ma anche Commerzbank a Francoforte, il peggior titolo, perde il 4,34%. A Londra tutti i titoli delle banche sono i peggiori in assoluto del listino: Royal Bank of Scotland meno 3,79%, Barclays meno 3,46%, Lloyds meno 3%, Milano il peggior titolo è Parmalat, quantomeno non è una banca. Il gruppo di Collecchio perde il 5%, Fondiaria ha altri problemi. Dopo la chiusura dell'aumento di capitale, tutti i problemi finanziari del gruppo, oggi si perdono altri 4,5 punti. E poi le banche: Banco Popolare meno 4,38%, è la banca che ha superato con un po' più di difficoltà delle altre italiane il test, lo stress test, meno 4,38%. Dicevo, Intesa invece, il gruppo che lo ha passato meglio, perde comunque 3,5 punti abbondanti. Unicredit meno 3,39%, Popolare di Milano meno 3,15%. Insomma, questa è la situazione di stamattina. L'euro sul dollaro 1,40,41. Mi sono tolta il sassolino dalla scarpa, il pensiero di raccontarvi la seduta di borsa. Non è questo il tema di cui parleremo stamattina, però, a Salva Danaio, perché parliamo di tutt'altro. Come facciamo almeno un paio di volte a settimana in concomitanza con la sua pubblicazione, vi presentiamo la guida pratica, la guida del Sole 24 Ore, quella che esce oggi, riguarda fisco e imprese. Drastico taglio delle tasse per le microimprese giovani, ma anche requisiti più stringenti per poterne usufruire. La manovra economica ha ottenuto la fiducia della Camera, oggi è la prova dei mercati finanziari, una manovra che ha modificato tante cose, come sapete modifica radicalmente anche il cosiddetto regime dei contribuenti minimi. Dal 1 gennaio del prossimo anno il sistema fiscale semplificato, vi spiegheremo poi che cos'è, sarà ancora più vantaggioso, perché l'imposta da versare passerà dall'attuale 20% al 15%. Chi ne potrà al 5%? Sì, Giovanni mi alza la mano, sì, infatti avevo scritto 5, ma a furia di dare tutti questi numeri questa mattina ho dato anche questo. Ne potranno usufruire però solo le nuove imprese e i nuovi professionisti o i soggetti che hanno avviato l'attività dal 1 gennaio del 2008 in poi, e durerà solo per 5 anni contro i 3 rinnovabili di adesso. Questa non è l'unica novità di rilievo per gli autonomi, la manovra introduce anche una stretta sulle partite IVA inattive. Scatta la revoca d'ufficio se il titolare non ha esercitato attività d'impresa o se non è presentato la dichiarazione IVA pur essendone obbligato. Giovanni Parente, buongiorno intanto. Buongiorno a te, Deborah. Lucidissimo come non mai, ma subito fatto, ma segnalato appunto con il cartellino rosso l'errore clamoroso che stavo dicendo. Gli esperti nell'ambito fiscale che questa mattina sfrutteremo al massimo sono un tanto un gradito ritorno, quello di Giovanni Valcarenghi, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. E buongiorno e benvenuto anche per la prima volta all'esordio a Salva Danaia, un altro esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore, Gianfranco Ferranti. Dottor Ferranti, buongiorno anche a lei. Buongiorno anche a voi. Allora, aiutatemi ascoltatori questa mattina, non è un tema che frequentiamo molto spesso a Salva Danaia, per cui ci interesserebbe capire soprattutto quali sono i quesiti più diffusi tra di voi. Chiamateci all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Giovanni, ti chiedo subito di farci il biglietto da visita dei temi principali toccati dalla guida questa mattina. Certo, questa mattina affronteremo, come dicevi tu, il nuovo regime dei minimi che scatta dal 1 gennaio 2012, che ha due sostanziali novità. Vengono privilegiate le start-up, quindi le nuove imprese, e allo stesso tempo però si restringono i requisiti per l'accesso delle altre imprese, insomma di quelle che anche adesso fanno parte del regime dei minimi. Però a fronte di questo restringimento della cerchia c'è un maggior vantaggio fiscale, vale a dire, appunto, come dicevi, si passa dal 20% del prelievo in forma fissa al 5% del prelievo IRPEF. Le altre novità riguardano anche la chiusura delle partite IVA inattive, che sarà possibile sanare entro il 4 ottobre con il pagamento di una sanzione di 129 euro, e andando un po' più sul tecnico, ma questo riguarderà la dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo, c'è un nuovo regime del trattamento delle perdite fiscali, che non sono le perdite di bilancio, ma in realtà quanto si perde in termini di dichiarazione dei redditi, proprio spiegato in maniera forse semplicistica. Le perdite fiscali con riporto, che a me aveva fatto anche un po' sorridere, in realtà c'è una questione molto seria dietro alla titolazione. No, stavo guardando la questione della partita IVA inattiva che si sana appunto con 129 euro, ma perché era così diffusa, Giovanni, la pratica di non magari, non lo so, esercitare più una professione con una partita IVA e non comunicare al fisco che questa era inattiva? Certo, il problema è che come stima la relazione tecnica la manovra, ci sono circa 2 milioni di partite IVA inattive in Italia. Quindi insomma è un problema che riguarda chi la apre e non la usa, o chi la apre e insomma tende a fare operazioni imponibili finiva e non a dichiararle. Quindi insomma è un modo anche per portare a galla presunte evasioni di IVA, quindi insomma anche in questo modo la manovra tende ad avere un effetto deterrente da questo punto di vista, e ad agganciare anche subito un effetto di recupero di gettito. Insomma, perché se moltiplichi i 2 milioni di partite IVA inattive per 129 euro, insomma si stima sui 58 milioni di euro di recupero, insomma in termini massimi, sempre poi pensando ad un ulteriore recupero degli inattivi per gli anni successivi. Allora, vorrei andare invece al tema nella maniera specifica approfondito questa mattina sulla guida del Sole 24 Ore, appunto la questione dei regimi dei minimi, e così faccio anche esordire radiofonicamente Gianfranco Ferranti, nostro ospite di questa mattina, insieme a Giovanni Valcarenghi, tecnici praticamente della questione. Dottor Ferranti, mi spiega, per spiegarlo a quella che invochiamo sempre, la nostra amica casalinga di Voghera, che cos'è il regime semplificato, come è stato introdotto e quando il regime dei minimi, di cosa stiamo parlando esattamente? Si tratta di un regime che agevola appunto le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa o un'arte o professione e che hanno dimensioni ridotte, perché tra i requisiti c'è non aver conseguito nell'anno precedente più di 30.000 euro, non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto, non aver acquistato nel triennio precedente o bene strumentali di ammontare complessiva a 15.000 euro, quindi sono i contribuenti diciamo più piccoli, che dal 2012 ci sarà questa novità, che però devono avere un ulteriore requisito, devono intraprendere un'attività d'impresa, un'altra professione, oppure averla intrapresa dal 1 gennaio 2008. Ma ci può fare un esempio di un professionista che può ricadere all'interno di questa categoria, dottor Ferranti? Che ne so, il calzolaio piuttosto che un altro professionista che lavora da solo, quindi non ha bisogno per esempio proprio dell'attività di dipendenti, di collaboratori? Esatto, lavora da solo e ha anche un volume d'affari, diciamo, un ammontare di ricavi, se un calzolaio, se magari un giovane professionista, avvocato, commercialista, di compensi appunto limitati, no? Allora ecco che adesso però si vuole agevolare anche proprio chi intraprende un'attività, quindi i giovani oppure anche chi ha perso il lavoro, chi magari è in mobilità, per cui possono fruirne anche coloro che hanno una certa età, però chi è giovane ne può fruire per più tempo, perché è prevista, no, che si applichi per 5 anni, ma se non si sono compiuti ancora i 35 anni se ne può fruire anche per più anni, fino a quello in cui si compiono appunto i 35 anni. Certo che questa novità della quale si parla questa mattina è molto importante, perché in un momento in cui effettivamente molte imprese licenziano, si rimane a casa per tutta una serie di motivazioni, come noto, si dà anche in qualche maniera a molte persone magari di inventare un'impresa proprio per collocarsi, Giovanni, sul mercato del lavoro. Mi sembra, adesso senza voler sponsorizzare per forza l'iniziativa della manovra fiscale, perché poi cominciano a dirci sì, siete filo governativi, non è il, come dire, l'obiettivo di Salvadanaio dare un giudizio sulla manovra o meno. Stavo proprio veramente adesso facendo un ragionamento un po' a mente fredda: chi magari ha un talento, una piccola vocazione imprenditoriale, magari grazie anche alle agevolazioni fiscali può in questo frangente così delicato permettersi di avviare una nuova avventura professionale. Assolutamente sì. Tieni presente che in un momento in cui si inizia a parlare di taglio delle agevolazioni, questo può essere assolutamente un incentivo in più per consentire a chi si vuole inventare un'impresa, a chi si vuole reinventare, di mettersi sul mercato dell'imprenditorialità. Certo, magari chiedo anche ai professionisti cosa ne pensano. Giovanni Valcarenghi, secondo lei si potrà, come dire, riattivare in qualche maniera anche il mercato del lavoro da questo punto di vista? Ma sicuramente l'intento è della manovra è certamente quello. Vorrei dire che le agevolazioni c'erano già anche nel passato e ci sono ancora anche adesso nel 2011. Questa è una nuova modifica di quelle agevolazioni, tanto per capire, rispetto agli attuali soggetti fatti pari a 100, nel nuovo regime ne entreranno solo 4, quindi 96 dovrebbero fuoriuscire, ma l'intento della manovra è proprio quella: per quei 4 che restano nel regime, l'incentivo, cioè il pagamento ridotto delle imposte, è molto più apprezzabile. Quindi verificare che si abbiano i requisiti, quindi non perdere di vista questo aspetto, mi sembra. Certamente sì. Leggevo che praticamente non può ottenere questi benefici chi praticamente prosegue un'attività di impresa, quindi stavo chiedendo, ma chi magari in questo frangente eredita una piccola attività paterna, a che condizioni può ottenere questi benefici fiscali, Valcarenghi? Allora, i benefici possono esserci anche nel caso di prosecuzione di un'attività già da altri svolta, quindi l'attività del papà che viene proseguita dal figlio. E l'unico vincolo è che l'attività del padre, nell'esempio che facciamo, non deve aver prodotto nell'anno precedente un ammontare di ricavi o di compensi superiore alla soglia massima dei 30.000 euro, che è il parametro che veniva prima richiamato dal professor Ferranti, che dobbiamo sempre tenere sott'occhio. Quindi l'agevolazione solo per le piccole attività. Questo nuovo soggetto, il figlio nel nostro caso, potrà proseguire l'attività paterna se c'è questo requisito, e anche gli altri beneficiando della riduzione delle imposte. La norma non fa distinzioni, Giovanni, di settori, voglio dire, non è no, che... No, da questo punto di vista no, non c'è nessuna, diciamo, nessuna tra virgolette discriminazione di settore per accedere al nuovo regime dei minimi, è solo una discriminazione anagrafica sostanzialmente in termini di nascita dell'impresa. Certo, in termini. Allora, adesso andiamo in pausa perché abbiamo il nostro primo break, un po' di pubblicità, il metodo, poi ci ritorneremo magari proprio a fare l'ABC dell'accesso al regime dei minimi, ma anche chi c'è già all'interno appunto di questo regime, se si perdono i requisiti che cosa succede, magari per poter comunque continuare a mantenere l'incentivo fiscale. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Adesso cominceremo a rispondere anche a voi al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. A tra pochissimo. Stanno arrivando tante domande sul tema che abbiamo scelto di affrontare questa mattina, il taglio delle tasse per le microimprese giovani, il tema affrontato questa mattina dalla guida del Sole 24 Ore, in sostanza la nuova tassazione dei minimi, dei contribuenti minimi, come funziona, quali sono le novità che vengono introdotte con la manovra di correzione dei conti pubblici degli ultimi giorni. 800 24 00 24, con noi questa mattina il collega del Sole 24 Ore Giovanni Parente, due esperti fiscali del Sole che conoscono molto bene l'argomento, Giovanni Valcarenghi e Gianfranco Ferranti. E naturalmente subito direi le domande dei nostri ascoltatori, perché grazie ai vostri casi concreti riusciamo anche a capire bene la normativa, quella preesistente e le novità appunto introdotte dal decreto legge 98. Allora andrei a Karim da Parma. Buongiorno Karim. Buongiorno. Buongiorno. Signora Rosciani, buongiorno. Volevo chiedere una domanda ai vostri esperti. Niente, avevo intenzione di aprire un'attività, un distributore di metano per auto, e quindi ecco, essendo una startup e avendo io 33 anni, quindi mi sembra di rientrare in questa fascia della tassazione al 5%. Certo. Però ho sentito accennare che è riservato soprattutto alle piccole attività che hanno una spesa, quindi avendo io una spesa iniziale per le attrezzature che devo, l'impianto che devo costruire, il costo di inizio attività è un po' elevato, volevo sapere se aveva... Quanto costerebbe aprire un'attività di questo tipo, Karim? È abbastanza... No, perché ci incuriosisce anche. Parecchie, arriviamo anche sui 100.000 euro, poi adesso di preciso sinceramente visto un po' informato, perché poi dipende anche se uno, vabbè, a parte il terreno che uno può scegliere di acquistarlo, però il fatto, quello che costa è ovviamente le varie attrezzature, l'impianto un po' di decompressione, sono queste cose qua che bisogna sentire, devo sentire due o tre imprese. Ecco, certo. Karim, grazie. Andiamo subito allora all'impatto concreto delle novità normative sulle progettualità anche dei nostri ascoltatori. Gianfranco Ferranti, io chiedo subito a lei, intanto quali passi deve fare Karim appunto per, non dico tanto per avviare appunto la sua attività che credo li abbia già fatti, si è arrivato anche a così elaborare un preventivo di massima di quello che gli servirebbe finanziariamente per partire, ma soprattutto per capire se potrebbe riuscire ad essere fiscalmente agevolato secondo il regime dei minimi. Beh, deve verificare evidentemente due aspetti, soprattutto quello appunto di non aver conseguito, innanzitutto bisogna vedere quando è che ha aperto, ancora deve aprire. No, sta ancora facendo, non ha ancora fatto nulla. Ecco, allora diciamo ci sono due requisiti che però non gli, a mio modo di vedere, non gli impediscono di entrare nel nuovo regime, ma che deve monitorare, diciamo, dall'anno successivo, perché a questo punto non deve aver conseguito ricavi nell'anno precedente, nel primo anno di attività superiori a 30.000 euro, e nei primi tre anni di attività deve non aver acquistato beni strumentali di ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Quindi direi, dal tipo di attività che vuole intraprendere, è destinato probabilmente a uscire rapidamente da questo regime. Quindi bisogna capire se questo investimento iniziale di circa 100.000 euro che lui deve fare, praticamente deve isolare la voce beni strumentali, e questi non devono, certo, superare 15.000 euro, però non credo che sia possibile così ad occhio a giudicare dal tipo di attività che Karim ha scelto, sa che cosa ricade nell'ambito di un distributore di metano sotto la voce di bene strumentale. Comunque insomma, questo è, in ogni caso anagraficamente lui ci rientrerebbe perché ha 33 anni, giusto Ferranti? Sì, sì, certo, uh-huh. A condizione appunto che abbia intrapreso una nuova attività, ovviamente. Uh-huh. Salvatore da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno, vorrei fare una domanda. Io sono un consulente e quindi sono un contribuente minimo. Sì. Vorrei sapere che cosa avviene nel momento in cui si supera durante l'anno questa fascia dei 30.000 euro. Immediatamente si rientra, cioè, nel regime ordinario, oppure si rientra dall'anno successivo? Ah, grazie. E poi, sì, se ancora, se è possibile fare un'altra, sì, sì, certo, domanda. Giusto, se si parla di ricavi o di fatturato, perché prima il vostro esperto parlava di ricavi, ma o di fatturato, perché sarebbe un po' differente, perché nel caso del ricavo dovremmo togliere eventualmente le nostre spese, oppure invece in generale di fatturato, e se possibile ancora magari lavorare come lavoratore dipendente mentre si ha questo tipo di regime. Grazie Salvatore, beh, sono domande tutte molto interessanti, molto belle. Allora vado a Giovanni Valcarenghi. Intanto, allora, mettendo appunto di così avere un'idea secondo l'attività che si svolge di potersi mantenere all'interno dei requisiti della contribuzione minima, però ad un certo punto magari, che ne so, l'attività va particolarmente bene, il requisito minimo dei 30.000 euro di ricavi, perlomeno leggo dal Sole 24 Ore, viene ad essere superato, e che cosa succede? Si perde immediatamente il requisito seduta stante, il fisco ci viene a bussare alla porta e dice: guarda, tac, hai superato i 30.000 euro, quindi da domani non sei più contribuente minimo. Valcarenghi. Allora, innanzitutto bene che vengano superati i ricavi o i compensi a seconda del tipo di attività, perché il riferimento letterale che faceva l'ascoltatore Salvatore da Pavia era proprio questo: ricavi se svolgi un'attività di impresa, nel suo caso mi sembra che parli di consulenza, quindi sì, compensi, e le spese non c'entrano nulla, si guardano praticamente le somme materialmente incassate. Se supero il limite dei 30.000 euro devo abbandonare il regime agevolato dall'anno successivo. C'è solo una ipotesi in cui io superi attualmente invece l'importo di 45.000 euro, quindi oltre una volta e mezza il tetto massimo previsto per legge, allora in questo caso c'è un abbandono immediato, istantaneo, del regime dei minimi, e già da subito si deve tornare ad esempio ad applicare l'IVA, a tenere le scritture contabili che invece non sono obbligatorie per i minimi, e quindi ad attivare subito tutti gli adempimenti. Faceva anche la domanda Salvatore sulla eventualmente cambiamento della propria posizione da consulente a lavoratore dipendente. Adesso non riesco a stabilire io un legame fra le domande. Valcarenghi. Se non ho capito male, la sua domanda era se erano coesistenti, se potevano convivere, insomma, tranquillamente il regime dei minimi con un'attività di lavoro dipendente. Sì. Non ci sono assolutamente delle preclusioni, anzi, quando era nato il regime dei minimi serviva anche proprio per agevolare delle attività ulteriori rispetto a quella di lavoro dipendente o di pensione che poteva essere, e quindi i regimi possono stare tra di loro assieme. Ovviamente attenzione che se invertiamo il ragionamento, se parliamo di un dipendente che vuole abbandonare il lavoro da dipendente e cominciare ad utilizzare magari dall'anno prossimo il regime agevolato dei minimi, in questo caso il nuovo lavoro non deve essere una continuazione del lavoro che prima faceva come dipendente. Allora Gianfranco Ferranti, vengo a lei con le altre domande dei nostri ascoltatori. Cosa succede, ci chiede un amico appunto che ci segue da casa al 349-238-6666, a chi ha un'attività aperta dal 2006 ma è contribuente minimo dal 2009? Allora, evidentemente ha intrapreso un'attività prima del 2008 e quindi dal 2012, quindi dall'anno prossimo, non potrà più restare nel, diciamo, fruire del regime dei minimi. Tuttavia, per questi casi è previsto un regime residuale, come dire, un atterraggio, una fuoriuscita morbida, diciamo, dal regime dei minimi, perché chi aveva appunto, come in questo caso rappresentato, le condizioni, i presupposti per fruire del vecchio regime dei minimi, ma non può fruire del nuovo perché ha iniziato l'attività prima del 1 gennaio 2008, ha un regime un po' meno semplificato di quello dei minimi, perché appunto ha solo l'esonero dagli obblighi di registrazione, di tenuta delle scritture contabili rilevanti sia per l'IVA che per le imposte sui redditi, è esonerato dalla liquidazione e dai versamenti periodici dell'IVA, è escluso dall'IRAP, però deve presentare le dichiarazioni annuali, deve versare l'IVA in unica soluzione, e sul suo reddito di impresa o di lavoro autonomo non può applicare l'imposta sostitutiva nuova del 5%, ma deve applicare le aliquote progressive classiche, quindi non ha la riduzione ai fini dell'imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, oltre a dover versare anche l'IVA. Allora 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Sto intanto monitorando gli sms e devo dire che ci sono tanti ragazzi molto giovani che ci stanno scrivendo, che non conoscevano molto di queste opportunità, che quindi ci stanno chiedendo delucidazioni effettivamente su come poter beneficiare dell'agevolazione fiscale qualora si abbia in mente un'attività professionale individuale. Adesso vi rideremo un po' tutto l'ABC. Giovanni, volevi aggiungere qualcosa sulla perdita dei requisiti? No, mi facevi solo cenno che era pubblicato che c'era questo regime residuale fiscale. In più ti volevo sottolineare la novità che è intervenuta in sede di conversione della manovra, quindi cioè praticamente da applicabile da ieri, insomma, in termini, anche se questo poi l'effetto sulla prima gennaio 2012. Ricco. Ecco, la novità è che praticamente se hai meno di 35 anni puoi provare a fruire del regime dei nuovi minimi per più di 5 anni, cioè nel senso hai una possibilità un po' più lunga di tempo. È chiaro che devi essere molto giovane per aver intrapreso l'impresa e per poter fruire dei nuovi minimi, insomma oltre i 5 anni di tetto massimo. Per esempio Davide che ci scrive al 349-238-6666 e ci racconta che a 20 anni vuole aprire un'attività di webmaster, però lui ci chiedeva qual è il limite massimo di fatturato reddito al quale deve sottostare per il regime agevolato. Rimaniamo ai 30.000 euro di ricavi, giusto? Esatto, esatto. Chiaramente dopo il primo anno sei fuori se superi quella soglia lì. Certamente. Allora, andiamo adesso alle altre domande degli ascoltatori. Intanto Gaia mi segnala dai mercati che si è ampliato a 326 punti base lo spread fra il BTP e il Bund, quindi il BTP decennale intorno a mezzogiorno viaggia al 5,90%, sta cominciando ad avvicinarsi a questa soglia del 6% di rendimento, mentre ci sono molte tensioni invece sui titoli di Stato greci. Qua lo spread rispetto al Bund si è allargato a 1537 punti base, vabbè, ma questo ormai è folklore finanziario. Ha raggiunto un nuovo record il tasso del bond greco a due anni al 34,38%. Io vi prego, state larghi da questa roba, perché non vorrei veramente dover cominciare a parlare nei prossimi mesi di tutti coloro che sono stati invogliati a comprare titoli di Stato greci e adesso la Grecia non ve li ripaga, non ve li ripagherà nei prossimi anni. Allora andiamo a Bruno da Milano. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, mi è sembrato di capire che il regime non è applicabile alle società di persone, giusto? Allora, Gianfranco Ferranti. Sì, sì, non è applicabile solo alle persone fisiche, quindi non alle società. Bruno, quindi, fisiche. Ecco. Nel caso, come andiamo a distinguere appunto i ricavi? Il regime si applica ai ricavi personali alla fine del conto economico o al ricavo d'impresa? Ferranti. No, sono i ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa determinati con le regole fiscali, non quelli civilistici da bilancio, diciamo. Beh, Bruno, è accontentato? Sì, la ringrazio. Grazie. Buongiorno. A lei, arrivederci. Io mi ero sentita completamente esclusa da questa conversazione incredibile, però ci piace anche questa botta e risposta fra i nostri amici che ci seguono da casa e i nostri esperti fiscali. Ho sempre bisogno, quando trattiamo questi argomenti, di paracaduti molto importanti. Stamattina Valcarenghi e Ferranti lo sono di sicuro. Intanto ci ha scritto una mail un ascoltatore, Alessandro, che fa un lavoro del quale io vorrei conoscere qualche dettaglio, per cui se riesco adesso con Gaia lo chiamiamo, lo avviso, perché lui ci ha scritto una mail a salvadanaio@radio24.it. L'amico Alessandro che fa il procacciatore d'affari di vari prodotti senza prevalenza. A prescindere dalle sue domande tecniche, sono molto pertinenti, Alessandro, io vorrei conoscere qualcosa di più del suo lavoro, quindi adesso la faccio chiamare da Gaia. Se ci risponde bene, se no poi leggerò la sua mail. Però intanto avevamo Paola da Treviso. Paola. Sì, buongiorno e ci complimenti a tutta la radio. Grazie Paola. Ti ascolto lavorando. Molto bene, grazie. Dunque, io volevo chiedere una cosa. Io ho una ditta individuale, fatturo molto di più di 30.000 euro e volevo capire, però ho una passione, diciamo, per i servizi. Adesso volevo capire se io posso avviare un'altra attività, usufruire del regime dei minimi ed eventualmente anche se queste due attività cioè si possono incrociare, nel senso, non so, se io avessi una ditta, aprissi una ditta di pulizia, esempio. Sì, adesso quella che ha già, Paola, si occupa un comparto molto diverso? Sì, faccio cablaggi elettrici. E quindi capire se magari due attività in settori molto diversi possono incrociare, quindi praticamente lei vorrebbe aprire l'impresa di pulizia per magari andare... No, ma è questo perché aprirebbe anche tutta una serie di possibili, insomma, secondo me, cioè io non la vedo positiva in un senso e non positiva in un altro. Comunque allora, vi ascolto per radio. Aspetta, grazie. Ma magari aspetti lì Paola, se vuole, così se i nostri esperti hanno bisogno di qualche altro dettaglio da parte sua. Ritorno a Gianfranco Ferranti, che era stato molto bravo a dare indicazioni pratiche che agli ascoltatori precedenti, senza nulla togliere ovviamente a Valcarenghi, però Ferranti, così lo valorizziamo un po' di più perché è la prima volta che interviene a Salvadanaio. Paola ha già un'attività con la quale già riesce ad ottenere ricavi superiori ai 30.000 euro, per cui per questa attività sicuramente non può avere l'incentivo del contribuente minimo. Ma se ne aprisse una seconda? Beh, è sempre, diciamo, consegue un unico reddito d'impresa, anche se derivante da più attività, e quindi si cumulano i ricavi delle due attività, e nel caso dell'ascoltatrice evidentemente supera i 30.000 euro e quindi non può fruire per nessuna delle due. Non possono essere considerate, il contribuente è unico, pur avendo due attività separate, certo. Esatto. Allora, quindi anche se fosse, come dire, a posto dal punto di vista anagrafico, non potrebbe. Vorrei tornare al ventenne che ci ha scritto prima, che vuole aprire questa attività di webmaster. Ci ha chiesto il limite, appunto, di fatturato reddito al quale deve sottostare per il regime agevolato, ma mi chiedo quali altri passi deve fare, appunto, per poter così colloquiare con il fisco al fine di capire se può, appunto, aprire questa attività agevolata. Valcarenghi, allora, che suggerimenti pratici di comportamento diamo ad un ventenne così volenteroso? Diamo dei suggerimenti molto immediati, perché fortunatamente il regime dei minimi non richiede particolari adempimenti per poter essere colto, quindi dovrà semplicemente aprire la partita IVA indicando la sua attività professionale, nemmeno deve essere iscritto alla Camera di Commercio, quindi avrà una gestione burocratica molto snella, molto spedita per l'avvio della propria attività. E nell'aprire la partita IVA manifesta l'intenzione, sul modello specifico che deve essere consegnato all'Agenzia delle Entrate, di avvalersi del regime dei minimi. Poi dovrà tenere sott'occhio i vari requisiti, quindi l'ammontare massimo dei compensi, nel suo caso dei 30.000 euro, non fare investimenti su un triennio per oltre 15.000 euro, nel suo caso sarà acquisto di computer, macchinari d'ufficio, presumo attrezzature che gli occorrono per il proprio lavoro, e potrà in questo modo proseguire tranquillamente. Ecco, tanti altri ascoltatori ritornano ancora sulla perdita del requisito, soprattutto quello legato al fatturato. Cosa succede, lo ribadiamo ancora, aspetto toccato anche in precedenza nella trasmissione, a chi sfora, a chi supera i 30.000 euro? Deve solamente, come dire, fare tutte le adeguate comunicazioni al fisco, Valcarenghi, nell'anno successivo, appunto, all'anno in cui si è esercitata in cui è stato superato, appunto, il limite. Sì. Esatto, diciamo che superando i 30.000 euro c'è comunque l'abbandono del regime. Può essere un abbandono ritardato, nel senso che ad esempio supero nell'anno 2011 i 30.000 euro di fatturato, di ricavo o di compenso, ne conseguo ad esempio 35.000, vuol dire che dal 2012 non potrò più applicare il regime dei minimi. Chiudo l'anno 2011 in corso, ancora come minimo, dall'anno successivo ritorno contribuente normale. Se invece questo se invece superassi andando oltre i 45.000 euro di ricavi e di compensi, quindi ho un enorme incremento dei miei introiti, allora in questo caso abbandono il regime dei minimi da subito. Ad esempio nel luglio del 2011 ho conseguito 48.000 euro complessivi di compensi, già da subito devo cominciare a comportarmi come un contribuente ordinario. Ma se nel giro di un anno finisco sotto i 30.000 euro e quindi tutta quella situazione di felicità professionale, insomma, viene a mancare, riesco a riconquistare il diritto e il requisito di contribuente minimo? E potrei applicare il requisito del regime dei minimi, ovviamente, però devo andare dall'anno successivo, sì. Cioè pensare dall'anno successivo, certamente sì. Se ho tutti gli altri requisiti, non aver superato gli investimenti in beni ammortizzabili, eccetera. L'anagrafica, eccetera. Allora, tra l'altro, l'ascoltatore Alessandro, il procacciatore d'affari di vari prodotti senza prevalenza, non ci chiama, evidentemente senza prevalenza di prodotti e settori, non lo so. Comunque, ci ha scritto dicendoci che ha aperto questa attività con regime di contribuente minimo dal 1 gennaio dello scorso anno 2010. A gennaio prossimo voglio aprire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Posso mantenere il regime di contribuente minimo? Allora, Gianfranco Ferranti, torno a lei. Poi l'investimento in beni strumentali non dovrebbe superare i 15.000 euro, questo l'abbiamo detto. Nel 2010 non supererò i 30.000 euro di fatturato. Attualmente ho 43 anni. Ferranti. Ecco, bisogna fare innanzitutto chiarezza sull'età. L'età non è un requisito indispensabile per accedere al regime dei minimi, per cui anche se si hanno 50 anni, no, purché sussistano gli altri requisiti di cui abbiamo parlato, si può fruire del regime dei minimi. L'età dà solo il vantaggio di fruire, se si è giovani, per più di 5 anni del regime dei minimi, sempre sussistendone i presupposti, diciamo. fatta questa premessa, evidentemente vale quello che dicevamo prima, bisogna vedere se per tutte queste attività nel 2010 si sono conseguiti ricavi da determinare con le regole fiscali non superiore a 30.000 euro, e ovviamente sono stati rispettati anche gli altri requisiti, allora si può fruire nel 2011 e poi nel 2012 del regime dei minimi. Ecco, dal 2012 c'è un'altra condizione, che è quella che per fruire del regime dei minimi si deve intraprendere una nuova attività d'impresa. Quindi, se già si esercitava un'attività d'impresa, anche se nel suo caso in qualche modo diversa, no? Sì. Alla quale si aggiunge una nuova, ritengo che non basti effettuare una di due attività, diciamo, che danno luogo al reddito d'impresa nuova per rimanere nel regime dei minimi a partire dal 2012. Allora, andiamo adesso ad Isidoro da Lecco. Intanto Piazza Affari è sospesa per problemi tecnici la negoziazione di alcuni strumenti sui mercati ETF, Sedex, sul MOT, il mercato telematico dei titoli di Stato, lo ha comunicato Borsa Italiana. I titoli sospesi da circa un'ora e mezza sono più di 4.200, un bel po' di strumenti finanziari. Ci mancava pure questa stamattina. Isidoro, buongiorno. Buongiorno, un'informazione. Io volevo sapere, mio figlio 28 anni dovrebbe aprire un'attività nuova, sì. Tutta individuale, però dovrebbe fare l'impresa familiare, cioè praticamente io dovrei essere come coadiuvante, entra nel regime dei minimi, perché sentivo che come società, no, ma questa non è una società. Io praticamente dovrei dividere solo i dividendi a fine anno. Isidoro, aspetti lì perché mi fa esplorare un campo a me del tutto sconosciuto. Giovanni Valcarenghi. Allora, può esistere il minimo in impresa familiare, non è una preclusione, non è una vera e propria divisione della distribuzione di dividendi, insomma si divide il reddito in proporzione all'apporto lavorativo che fa il titolare, che in questo caso sarebbe il figlio, e il collaboratore, che in questo caso sarebbe il signor Isidoro, si divide il risultato finale al termine dell'anno. Nell'attuale regime dei minimi non c'è una preclusione, anzi ci sono delle norme specifiche, e sembra anche che nel nuovo regime dei minimi dall'anno 2012 l'impresa familiare non sia incompatibile. Sarebbe incompatibile invece un'assunzione di dipendenti o l'utilizzo di altri collaboratori. Certo, che avevamo già detto prima. Allora, c'è un'ultima domanda, la facciamo fare, stamattina ho voluto dargli veramente tanto spazio. Stefano dalla provincia di Venezia. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Allora, io spero di non farvi una domanda che magari vi abbiano già fatto. Ma ribadiamo, Stefano, non c'è problema. Allora, io ho aperto la partita IVA all'inizio di quest'anno, quindi 2011, come libero professionista. Volevo capire se dal prossimo anno devo cambiare il regime o se posso rimanere col regime dei minimi. Beh, dipende, in previsione di registrare ricavi superiori ai 30.000 euro, così da quello che ho capito. No, assolutamente. E quindi Stefano, mi pare che siccome rimane il requisito fondamentale, Giovanni Parenti, siamo in grado di rispondere anche io e te a questa domanda, vero? Certo. Supportami un po'. Assolutamente sì. Perché le è venuto il dubbio, Stefano? No, a me il dubbio è venuto perché io mi sono rivolto a un commercialista per avere un'informazione, e questo commercialista mi ha detto che dal prossimo anno, con la nuova finanziaria che è stata varata, dovrò cambiare il regime e passare al regime ordinario. Ordinario. Allora, Ferranti, Ferranti, aspetti lì. Allora, Stefano Ferranti, ha ragione il commercialista del nostro amico? Il fatto che abbia intrapreso prima del 2012 l'attività non è preclusivo del regime dei minimi, perché è sufficiente averla intrapresa a partire dal 2008, e quindi lui questo requisito lo possiede. Quindi bisogna solo andare a vedere se per caso nel frattempo non ha perso uno dei requisiti o non è in corso in una delle cause di esclusione che pure sono previste dalla norma. Ecco, solo per questo fatto di aver già iniziato l'attività nel 2010 non fuoriesce, diciamo, dal regime dei minimi. Quindi, insomma, non deve aver acquistato beni strumentali per oltre 15.000 euro, deve aver mantenuto il tetto dei ricavi per i 30.000. C'è la guida del Sole 24 Ore di questa mattina. Io ringrazio molto Giovanni Parente, Giovanni Valcarenghi e Gianfranco Ferranti per essere stati con noi. Sono contenta della forte partecipazione da parte degli ascoltatori alla trasmissione di stamattina. Noi ci risentiamo tra poco, immagino, nel giornale radio con il nuovo record raggiunto dallo spread fra BTP e Bund. Non vi dico quanto, ve lo dico fra poco nel GR. Buona giornata.